No, no, così non ci siamo. La farmacia non va bene. Cosa posso darvi di più facile di così? Allora, vediamo. Ma proviamo con un classico, un dialogo tra due innamorati. Vediamo se con questo riuscite a tirar fuori qualcosa di decente. Ma Natalia si pronuncia Natalia o si pronuncia in un altro modo? Natalia. Ragazzi, no, questa è roba russa, sapete come si dice? Rosa russa, Iervolino. Ora anche i grandi classici russi tocca imparare. Ci tocca imparare anche il russo, dopo il milanese anche il russo. Vabbè, dai, la maestra forse sarà clemente, visto che noi cirillico non lo conosciamo. Abbiamo fatto sufficientemente pietà le volte precedenti. Vediamo stavolta, insomma, c'è i russi, non facciamo brutta figura. Che Putin c'ha il bottone più grosso, tanto di Trump che di Kim Jong-yong messi insieme. Allora, siamo pronti a cominciare? Dai, dai, io ci sono. Che Putin ce la mandi buona. Si può partire? Ah, ricordatevi, uno dei personaggi è una donna. Ma bisogna fare la voce da donna? Io che te lo devo dire, io non so. No, allora facciamo conto che è una donna ma che parla come un uomo. Una donna con la voce d'Aua. Una donna con la voce mia, fa così. Vai Natalia. Oh bella, è lei. Papà mi ha detto che era venuto uno per fare un contratto. Buongiorno, Ivan Vasilevich. Buongiorno, egregia Natalia Stepanova. Scusi se sono in grembiule, nel negligé. Stiamo sgranando i piselli per metterli a seccare. Come mai non si è fatto vivo per tanto tempo? Si accomodi. Vuol fare colazione? No, grazie, ho già mangiato. Fumi pure. Ecco i fiammiferi. Oggi è una giornata splendida. Ieri invece è piovuto tanto che i braccianti sono stati tutto il giorno senza fare niente. Da lei quanti mucchi di fieno hanno già fatto? Io, caro lei, ho voluto strafare e ho fatto falciare tutto il prato, ma adesso me ne pento e ho paura che il mio fieno marcisca. Sarebbe stato meglio aspettare. Ma come? Lei in frac? Bella questa! Va ad una festa da ballo? A proposito, lo sa che lei oggi è proprio bello? Sul serio, a che cosa si deve tanta eleganza? Dunque, egregia Natalia Stepanova, il fatto è che mi sono deciso a chiederle di ascoltarmi. Naturalmente lei si meraviglierà e addirittura si arrabbierà, ma io... Madonna, è freddo terribile! Di che si tratta? Dica! Cercherò di essere breve. Lei sa, egregia Natalia Stepanovna, che da molto tempo ormai, fin dall'infanzia, ho l'onore di conoscere la sua famiglia. La mia povera zia e suo marito, dai quali, come certamente saprà, ho ereditato le mie terre, hanno sempre avuto una profonda stima per suo papà e la sua povera mamma. Tra la famiglia dei Lomov e quella dei Kupkov ci sono sempre stati rapporti di amicizia e direi persino di parentela. Inoltre, come certamente saprà, le mie terre confinano con le vostre. Come certamente ricorderà, il mio prato del Bove confina con il vostro bosco di betulle. Scusi se la interrompo. Ha detto il mio prato del Bove? Ma è sicuro che sia il suo? Sì, signore, è mio. Questa poi, il prato del Bove è nostro, non suo. No, signore, è mio, egregia Natalia Stepanovna. Ma senti che novità, come fa ad essere suo? E come fa? Io sto parlando del prato del Bove che entra a cuneo tra il vostro bosco di betulle e la palude bruciata. Sì, sì, proprio quello, ma è nostro. Eh no, si sbaglia, egregia Natalia Stepanovna, è mio. Siamo seri, Ivan Vasilevich, da quando è diventato suo? E come da quando? E fin da quando mi ricordo è sempre stato nostro. Questa è proprio grossa. I documenti parlano chiaro, cara egregia Natalia Stepanovna. È vero, un tempo il prato del Bove è stato in contestazione, ma adesso tutti sanno che è mio. È proprio fuori discussione. Mi spiego. La nonna di mia zia diede questo prato in usufrutto gratuito per una durata illimitata ai contadini del nonno di suo papà perché essi facevano i mattoni per lei. I contadini del nonno di suo papà hanno usufruito gratuitamente del prato del Bove per circa 40 anni e si sono abituati a considerarlo loro proprietà, ma poi, quando c'è stata la legge di riforma... Le cose non stanno affatto così. Mio nonno e il mio bisnonno consideravano le terre fino alla palude bruciata loro proprietà. Quindi il prato del Bove era nostro. Non capisco che cosa ci sia qui da discutere. È persino seccante. E allora le mostrerò i documenti, Natalia Stepanovna. No, lei sta scherzando oppure vuole prendermi in giro. Fantastico. Possediamo questa terra da quasi 300 anni e un bel giorno ci vengono a dire che non è nostra. Ivan Vasilevich, scusi tanto, ma mi rifiuto di credere alle mie orecchie. Non che mi importi di quel prato, sono 5 ettari in tutto e valgono sì e no 300 rubli. Ma quel che mi indigna è l'ingiustizia. Dica quello che vuole, ma l'ingiustizia io non la posso soffrire. Mi ascolti, la scongiuro. I contadini del nonno di suo papà, come ho già avuto l'onore di dirle, facevano i mattoni per la nonna di mia zia. La nonna di mia zia, per fare loro cosa gradita... Nonno, zia, nonno, non ci capisco un accidente. Il prato è nostro, punto e basta. Eh no, signore, è mio. È nostro. Può parlare per 2 giorni di seguito, può mettersi anche 15 frac, ma il prato è nostro, nostro, nostro. Quel che è suo non lo voglio, quel che è mio me lo voglio tenere. Si arrangi. Il prato, Natalia Stepanovna, non mi interessa, ma è una questione di principio, potrei anche benissimo regalarglielo. Ma sono io che posso regalarlo a lei, perché è mio. Tutto ciò è perlomeno strano, Ivan Vasilevich. L'abbiamo sempre creduto un buon vicino, un amico. L'anno scorso le abbiamo prestato la nostra trebbiatrice, per cui noi altri abbiamo dovuto finire la trebbiatura a novembre. E lei adesso ci tratta da zingari. Mi regala la mia terra. Scusi tanto, ma tra vicini non ci si comporta così. Direi che questo è addirittura un affronto, se permette. Dunque, secondo lei, io sarei un usurpatore? Signorina, io non mi sono mai appropriato delle terre altrui e non permetto a nessuno di farmi simili accuse. Il prato del Bove è mio. Non è vero, è nostro. È mio. Non è vero, glielo dimostrerò. Oggi stesso manderò i miei uomini a falciarlo. Cosa? Oggi stesso là ci saranno i miei uomini. E io li caccerò a pedate. Come osa? Il prato del Bove è mio, chiaro? È mio! Non gridi, per favore! Può gridare di rabbia fin quando le basta la voce a casa sua, ma qui la prego di comportarsi in modo corretto. Signorina, se non fosse per questa tremenda, atroce palpitazione di cuore, se il sangue non mi battesse alle tempie, parlerei con lei in ben altro modo. Il prato del Bove è mio! È nostro! I cosacchi hanno abbeverato i loro cavalli a San Pietro. Mamma mia!